Allora, la relazione che farò è che più che avere un taglio sistematico cercherà di mettere a fuoco una serie di problemi legati alla questione del reclutamento di manodopera italiana da portare in Germania dopo l'8 settembre. Dovrebbe toccare una serie di punti che ora rapidamente vi illustro e che poi svilupperò nei limiti del tempo concessomi. Allora, il primo punto riguarderà una sorta di piccola preistoria dell'arruolamento di italiani in Germania, in quanto, come noto, è stato ricordato anche stamattina nella relazione di Max Rieder, l'arruolamento di manodopera italiana da impiegare in Germania non nasce con l'8 settembre del 1943, bensì nasce in realtà nel 1938, prima della guerra. Allora dirò due cose che servono ad inquadrare il problema e che dovrebbero permettere di discutere le permanenze e le trasformazioni, cioè che cosa grosso modo continua al di là della frattura dell'8 settembre, che cosa invece c'è di nuovo o di diverso. Detto questo, vorrei affrontare alcune questioni di carattere concettuale e terminologico per quanto riguarda i concetti di deportazione, internamento e lavoro coatto, che nella storiografia italiana tendono oggi ad essere usati in modo abbastanza distinto gli uni dagli altri. E quindi forse è il caso, mentre per esempio mi pare nella storiografia germanica tendono ad essere meno distinti per ovvia differenza di punti di vista. Un terzo punto che toccherò sarà la questione dei dati e dei numeri, cioè quanti sono, grosso modo, gli italiani che vengono reclutati dopo l'8 settembre per il lavoro coatto in Germania, distinguendo tra i lavoratori tra gli arruolati per essere impiegati nel lavoro e i deportati veri e propri, cioè coloro che finiscono nei CAEL e che vengono comunque utilizzati quasi sempre come manodopera coatta, però in condizioni come noto particolari. Cercherò poi di prendere in esame brevemente le zone di reclutamento, distinguendo tra i reclutati nei territori sotto controllo dell'RSI, i reclutati nelle zone annesse de facto, come abbiamo sentito dire stamattina, al Reich, e poi mi vorrei soffermarmi particolarmente su un caso particolare, che è quello degli italiani reclutati per la Germania in Francia, cioè di quegli italiani reclutati dopo l'8 settembre nell'emigrazione italiana in Francia. Perché vorrei soffermarmi su questo? Intanto perché è un caso meno studiato, in secondo luogo perché permette, a mio parere, di prendere in esame, di misurare su un terreno così importante come la politica estera, il rapporto con i propri connazionali all'estero, qual era l'efficacia statuale dell'RSI, cioè qual era la capacità dell'RSI di essere presente come Stato, semistato, mezzo Stato, Stato tra virgolette, all'estero. Quindi in che misura questo arruolamento coinvolge le rappresentanze dell'RSI in Francia. Dopodiché un ulteriore punto che brevemente toccherò sarà la questione dell'organizzazione del reclutamento, tenendo conto delle agenzie tedesche presenti in Italia, di cui dirò poco perché ne ha già parlato Klinghammer stamattina, ma cercando anche di vedere quali erano le agenzie italiane, le strutture italiane che fornivano manodopera alla Germania. E anche lì cercando di chiarire quali sono gli elementi di continuità, gli elementi di frattura. Dopodiché un quinto punto riguarda l'intrecciarsi della dimensione repressiva e della dimensione di arruolamento coatto di manodopera che hanno molte azioni partigiane, facendo azioni antipartigiane farò riferimento ad alcuni casi su cui ho condotto specifiche ricerche per vedere come questi due aspetti si intrecciano strettamente, pur essendo distinguibili. Allora, ricominciando dall'inizio, dicevo, la il trasferimento di manodopera italiana in Germania è cosa che comincia nel 1938 e avviene all'interno di quel complessivo riorientamento dell'economia italiana verso la Germania che procede in coerenza con l'asse e con lo stringere di rapporti politici di alleanza tra Italia e Germania. In questo quadro la guerra rappresenta un punto di svolta perché fa prevalere all'interno di quelli che sono, cioè l'entrata dell'Italia in guerra rappresenta un momento di svolta perché fa prevalere all'interno di quelli che sono rapporti di tipo economico quelli che sono i rapporti di forza, cioè il diverso peso degli stati italiano e tedesco nella conduzione della guerra. Questo comporta che accanto alla dimensione politica emerge una dimensione di nudi rapporti di forza, che fa sì che nel 1941 l'Italia riceva una perentoria richiesta di 200.000 operai industriali da mandare in Germania, possibilmente estraendoli direttamente dalle fabbriche. Cioè, quindi la Germania vuole manodopera qualificata non da prelevare fra i disoccupati, ma da prelevare direttamente tra gli occupati, possibilmente operai capaci, con esperienze. Si tratta di una richiesta che, a cui l'Italia in quel momento non può non acconsentire, e infatti riceverà una risposta positiva, e l'Italia metterà in atto un processo, un meccanismo di estrazione di manodopera, almeno per una parte di questi operai, per 50.000, quindi per un terzo, metterà in atto un'operazione di estrazione di manodopera dalle fabbriche, in un modo che ricalca alcune modalità applicate nella Germania nazista per ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Cioè, ogni azienda è tenuta a fornire un elenco alle prefetture, un elenco dei dipendenti, e sulla base di questo elenco verrà scelta una quota di manodopera da mandare in Germania, possibilmente su base volontaria. Testuale, questa è la circolare che il Ministero delle Corporazioni manda alle prefetture e agli ispettorati corporativi. Quindi in realtà noi troviamo già nel 1941 un elemento di parziale coazione, cioè come se la Germania facesse una forte pressione perché l'Italia applicasse la sua economia di guerra quelle misure di razionalizzazione che la Germania già stava applicando e che l'Italia dimostrava di non essere capace di applicare, come raccontano i rapporti diplomatici e diversi inviati tedeschi in Italia. Gli italiani non appaiono in grado di razionalizzare, di comportarsi come si deve comportare quando si è in guerra, quindi di razionalizzare la loro economia. E allora dobbiamo farlo noi. Tant'è vero che alla richiesta, la domanda che si pone l'ambasciatore von Mackensen, l'ambasciatore tedesco a Roma presso il Quirinale, quando arriva la richiesta tedesca di trasmettere alle autorità italiane questo tipo di richiesta, la domanda di von Mackensen a Clodius, cioè il ministero degli esteri del Reich, è: gli italiani d'ora in poi devono fare la guerra come soldati o come lavoratori in rapporto con noi? Cioè qual è il loro ruolo? Questa è una domanda di fondo, grossa. Dico queste cose per dire che appunto che l'elemento quindi dell'Italia come territorio da cui estrarre manodopera ha paradossalmente maggior rilevanza prima dell'8 settembre che dopo. Nel senso che da un punto di vista quantitativo noi troviamo che complessivamente possiamo stimare intorno a 500.000 il numero di italiani che vengono trasferiti in Germania dal 38 al 42, quindi una quota molto superiore a prima. Questo si accompagna con, già ne abbiamo sentito parlare stamattina, con l'utilizzo da parte tedesco di capacità produttive rimaste non sfruttate dell'economia italiana. Cioè una serie di commesse economiche che vengono date alle industrie italiane vengono passate all'Italia sulla base di rapporti degli uffici economici della Wehrmacht a Roma, i quali dicono, grosso modo, c'è una capacità produttiva del 10, 15, 20, 25, talvolta 30%, che a questo punto possiamo utilizzare e riempire. Quindi quello che è un rapporto di utilizzo delle capacità produttive italiane, in presenza di un giudizio gli italiani non sono in grado di farlo per conto proprio, è precedente all'8 settembre, ma risale sostanzialmente alla svolta, all'inverno 40, primavera 41, quindi molto prima. Già stamattina appunto Max Rieder ha illustrato una serie di meccanismi di sfruttamento economico. In questo caso occorre parlare di sfruttamento, mentre nel primo caso è un utilizzo. Cioè di come all'interno sia proprio questa massa, sia proprio la massa delle rimesse, dei trasferimenti di denaro che queste decine e decine di migliaia di lavoratori trasferiscono attraverso i meccanismi che lei ha illustrato, l'accordo Deutsche Bank, BNL, trasferiscono in Italia, la causa di fondo che fa precipitare il clearing, facendo sì che l'Italia accumuli una dose, una quota di passività estremamente alta. Praticamente c'è quasi una coincidenza fra valore delle rimesse e attivo dell'Italia, passivo tedesco. Allora, fin dalla fine del 41, l'atteggiamento tedesco rispetto al problema di pareggiare il clearing, poiché lo sbilancio di clearing imponeva alle autorità italiane di anticipare il salario. Cioè, in pratica, in presenza di un attivo di clearing, le autorità italiane avevano due alternative. O facevano aspettare le famiglie, cosa ovviamente impossibile per motivi di ordine pubblico, per motivi di controllo sociale, o anticipavano le rimesse. In questo modo, cosa succede? Che una parte dei salari pagati agli operai italiani in Germania venivano di fatto pagati dall'erario italiano. E questo vuol dire che una parte del potere d'acquisto generato in Germania veniva in realtà scaricato sull'economia italiana e sottratto alla complessità del potere d'acquisto in funzione in Germania. Questo voleva dire che la Germania, come del resto faceva con la Francia occupata, riusciva a far pagare una parte dei salari all'Italia e scaricava inflazione sull'Italia ben prima dell'8 settembre. Questa è la preistoria delle vicende che adesso cercherò brevemente di raccontare. Il fatto che però siamo prima dell'8 settembre e quindi esiste ancora una struttura statuale formalmente in grado di trattare in modo paritario con l'alleato tedesco, sia pure in condizione di forte debolezza, è una statua che appare forte ma ha i piedi appunto estremamente fragili d'argilla, si vede dal fatto che proprio per questi motivi all'inizio del 43 l'Italia, il governo italiano chiede e riesce almeno in linea generale ad ottenere il rimpatrio dei propri lavoratori dalla Germania, nel senso che riesce a ottenere un impegno tedesco perché i lavoratori vengano fatti rimpatriare. In realtà poi soltanto una parte, allora erano circa 200.000, adesso do le cifre di massima, poi si può entrare nel merito per avere un quadro, grosso modo ne rimpatriano la metà, da un terzo alla metà, i dati sono appunto incerti. Diciamo che l'8 settembre si può calcolare che circa 100.000 operai italiani, cioè, alcuni dati parlano di 80.000, altri danno 150.000, diciamo che 100.000 può essere una stima ragionevole a questo livello, rimangono in Germania. Quindi in realtà il fatto che l'Italia possa ancora agire come Stato, come non sarà più in grado di agire come Stato in grado di contrattare dopo l'8 settembre, si vede nel fatto che è possibile al governo di Roma ottenere presentare una richiesta di rimpatrio e ottenere che essa venga presa in considerazione e dia luogo a un accordo quadro dell'aprile 43 che prevede il rimpatrio a scaglioni dei lavoratori italiani in Germania, secondo scaglioni di mestiere, in base ai mestieri più utili e meno utili. Da questo punto di vista appunto l'8 settembre rappresenta chiaramente una cesura, nel senso che in realtà dopo l'8 settembre lo Stato italiano non è più, il semistato, l'RSI, non è più in grado di agire su un piano di trattative di questo genere. E questo appunto, così concludo questa dimensione di preistoria, cioè di cosa viene prima. Allora, vorrei fare a questo punto una pausa nella narrazione per affrontare le questioni terminologiche di cui dicevo prima. Normalmente si sta affermandosi nella storiografia italiana la tendenza ad usare il termine a limitare il termine deportazione a quegli italiani ebrei o non ebrei che vengono catturati e mandati nel sistema dei campi di sterminio, campi di concentramento in Kael. Stendiamo ad usare il termine internamento per indicare i militari che vengono internati in Germania dopo lo stemmio 43, tendiamo ad usare il termine arruolamento coatto per quanto riguarda i lavoratori che vengono arruolati in Italia per essere poi messi a disposizione delle strutture che fanno capo al Gewerkschaukel. Questo è il tipo di quadro che grosso modo si tende a, cioè il tipo di distinzione terminologica che si tende a fare. Quindi in grosso modo si distingue a partire dalla struttura, dal luogo di destinazione e dalla struttura che si fa a carico di queste persone nel luogo di ricevimento. Proprio per evitare una confusione terminologica molto diffusa in Italia, per cui col termine deportazione si tendeva ad alludere a tutto l'universo, cosa che sembrava, a me sembra personalmente abbastanza eccessivamente vago. Dopodiché, ovviamente, quando parliamo di arruolamento coatto, bisognerebbe ancora distinguere tra quelle fasce che sono arruolate effettivamente in modo coatto perché cadono in un rastrellamento e vengono mandate in Germania come lavoratori, e invece quella quota, seppur scarsa, minima, di alcune decine di migliaia, che effettivamente si presenta, che ha dimensione di volontarietà, nel senso che si presenta spinta da coazioni in buona parte di carattere economico, ma non forzata da coazioni di carattere extraeconomico, che si presenta ai centri di arruolamento tedeschi attivi in Italia. Quindi c'è una dimensione dentro la coazione, bisogna ancora distinguere fra due. Vorrei passare ora ad affrontare la questione dei dati e dei numeri. Anche qui, per quanto riguarda i lavoratori, cioè coloro che, escludendo quindi quelli che vengono utilizzati nel sistema dei CAEL, ancorché esso sia diventato in larga parte un sistema che fornisce la forza lavoro schiava, escludendo questi, di cui ora dirò, io credo che si possa stimare a una cifra intorno ai 100.000 il numero di italiani arruolati e mandati in Germania, se noi sommiamo appunto gli arruolati nei territori dell'RSI, gli arruolati fuori dall'RSI, intendendo le zone annesse di fatto al Reich, e poi questo universo, su cui spenderò qualche parola in più, degli arruolati in Francia, degli arruolati nelle colonie italiane di emigrati in Francia, una cifra intorno a 100.000. Grosso modo questa è abbastanza più alta di una serie di dati ricavabili dalle carte delle Militärkommandanturen, è però relativamente coincide o è un po' più bassa con una serie di dati che è trasmessa da Anfuso in Italia, quindi credo che parli di 150.000, poi tu dirai. Quindi credo che 100.000 sia una stima ragionevole da questo punto di vista, a questo livello di ricerca in cui bisognerebbe poi seguire più particolarmente i singoli flussi. Per quanto riguarda i deportati, di nuovo, manca una ricerca quantitativa precisa. Oggi l'abbiamo unicamente per gli ebrei, sono i poco più di 8.000 censiti nel volume recente degli Anna Picciotto Fergion sulla deportazione degli ebrei italiani, o comunque dalle zone che facevano allora parte dell'Italia, comprese quindi le isole dell'Egeo. A parte questi, una stima ragionevole parla di circa 40.000, compresi gli ebrei, quindi grosso modo abbiamo un universo di 140.000 persone, esclusi gli internati militari, di cui ovviamente io non parlo, che vanno in Germania in condizioni e modi profondamente diversi dopo l'8 settembre 43. Rispetto alle zone, come dicevo, le zone sono quelle che ho detto, adesso vedrò di esaminare un pochino più in particolare il caso francese. nel senso che il caso francese, poiché, come dico, mi pare che questo possa darci qualche idea sul funzionamento concreto dell'RSI come nella sua funzione statuale, nel rapporto sia con l'alleato tedesco, sia con uno Stato come la Francia di Vichy, quindi uno Stato collaborazionista anch'esso occupato, e nella capacità di coprire o difendere o utilizzare in qualche modo i propri concittadini all'estero. Allora, l'arruolamento in Francia era stato, la Francia era stata anch'essa coinvolta prima dell'8 settembre 1943 dalla ricerca tedesca di manodopera. Anche gli italiani presenti in Francia quindi vengono arruolati già prima dell'8 settembre. Ora ovviamente sorvolo su questo aspetto. Quello che avviene è che prima dell'8 settembre le strutture italiane presenti in Francia, la rete consolare, funziona come elemento di cui gli arruolatori tedeschi e le autorità di Vichy devono tenere conto. Dopo l'8 settembre questa cosa crolla. Per esempio, il 16 ottobre del 43 il governo Pétain emana su una richiesta delle autorità tedesche d'occupazione un'ordinanza che prevede il censimento di tutti gli italiani residenti in Francia al fine di incorporare gli idonei nel servizio obbligatorio del lavoro. Grosso modo, il fine di questo censimento che viene attuato, tra l'altro, è quello di individuare gli idonei e trasferirli in Francia. Non c'è alcun cenno di un coinvolgimento di autorità dell'RSI, di autorità di Salò presenti in zona. In pratica il trasferimento sarebbe stato gestito dalle autorità germaniche con la collaborazione degli uffici vichysois. Allora, all'8 dicembre 1943, si svolge a Berlino presso il Ministero degli Esteri una riunione dedicata totalmente a cosa fare rispetto a questo problema degli italiani presenti in Francia. Sono presenti i delegati di varie stanze tedesche, fra cui ovviamente anche i delegati del GBA, delegati di Sauckel, e viene reso pubblico la seguente intesa, secondo cui 2/3 degli italiani presenti in Francia sarebbero stati portati in Germania e l'altro terzo sarebbe dovuto essere utilizzato in Italia. La precettazione di questi italiani sarà attuata dagli uffici tedeschi in collaborazione con i rappresentanti fascisti, con i quali è stata raggiunta un'intesa. Qualora ci siano resistenze a prestare servizio, la polizia francese applicherà le misure necessarie di coazione. Quindi in realtà c'è sostanzialmente una presa d'atto da parte dei rappresentanti dell'RSI di un reclutamento coatto che avviene al di fuori del loro controllo. Questo tipo di intesa, che sembra fornire un quadro, non pare poi sia stato attuato come tale senza conflitti, nel senso che noi troviamo effettivamente una serie di conflitti e di resistenze che coinvolgono le autorità militari tedesche presenti in Francia, le quali preferiscono impiegare in loco gli italiani nelle imprese o nell'Esbetrieben, oppure in lavori di carattere militare, come fortificazioni, o in ogni caso direttamente al servizio delle forze militari d'occupazione. E poi c'è un intervento paradossalmente l'unica voce che sembra difendere l'RSI non è quella degli organi salottini, ma è quella dell'ambasciatore tedesco in Italia, Rahn. È Rahn che si fa interprete nel quadro della politica, della sua scelta politica verso l'Italia, già illustrata questa mattina, di istanze che tendono in qualche modo a salvaguardare la comunità italiana in Francia. Quindi c'è una rappresentanza per interposto Rahn. L'RSI agisce per interposta persona. A quanto pare, comunque, da una serie di rapporti sulle province, da varie province, da cui lettura ovviamente vi risparmio, li riassumo soltanto, a quanto pare l'arruolamento procede, cominciano i trasferimenti e alla fine di novembre scoppia un altro problema posto questa volta direttamente dal governo dell'RSI. Cioè il governo dell'RSI richiede che vengano scremati dagli italiani residenti in Francia quei giovani maschi adatti a prestare servizio militare e chiede che gli vengano restituiti allo scopo di ricostituire una forza armata repubblichina. Quindi abbiamo una richiesta analoga a quella presentata alla Germania rispetto agli internati militari, cioè in qualche modo di poter usufruire, di poter recuperare all'interno di questo tipo di universo di italiani manodopera, giovani coscritti. Le autorità militari francesi, tedesche d'occupazione in Francia, chiedo scusa, sono assolutamente contrario, sostenendo che si tratta di fascisti, che si tratta di antifascisti politicamente inutilizzabili e si tratta poi di gente che serve a loro. Di nuovo c'è un tentativo di Rand di mediare, l'ufficio di Rand si pone come mediatore tra Salò e le autorità militari tedesche in Francia. Di fatto le autorità militari tedesche in Francia poi trovano l'appoggio dell'ufficio di Sauckel in Francia e, questo è importante, anche delle autorità vichysoise, collaborazioniste francesi, le quali queste tre istanze fanno blocco premendo perché venga risposto negativamente alla richiesta italiana di avere giovani per l'esercito, perché per motivi diversi, però convergenti, le autorità militari tedesche vogliono usare in loro questa gente. Sauckel perché i suoi rappresentanti perché vuole utilizzarli per la Germania oppure direttamente di nuovo in loco. I francesi perché più italiani riescono a mandare in Germania più riescono a difendere i propri concittadini. C'è una politica francese che è quella di gonfiare i contingenti nelle varie azioni Sauckel nel 44, gonfiare i contingenti con stranieri per salvaguardare la propria manodopera e quindi gli italiani sono in prima linea in questa logica qua. In tutto questo quadro, in tutto questo gioco, l'RSI gioca un ruolo estremamente ridotto, non riesce ad avere alcun ruolo preciso. Ci sono poi una serie di accordi, adesso vedo che il tempo passa, quindi cerco di essere più sintetico. Viene poi raggiunto un ulteriore accordo che nell'ambito dell'azione che intraprende Sauckel nel gennaio-febbraio 1944 per reclutare altra manodopera francese, fra virgolette, cioè residente in Francia, da mandare in Germania, e a questo punto si stabilisce che presso gli uffici di arruolamento tedesco in Francia, i Verbe Stelle, si formi una struttura che devono censire i lavoratori per mandarli in Germania. Cosa fare degli italiani? Gli italiani vengono difesi, tra virgolette, in questo modo. Cioè, gli uffici di arruolamento sono formati di funzionari tedeschi e francesi di Vichy. L'RSI è presente con un timbro per ufficio, che viene nel senso che gli ufficiali arruolatori tedeschi dello staff di Sauckel dispongono di un timbro della RSI su cui timbrano i documenti per mandare che autorizzano l'invio di contingenti italiani in Germania. Questa è la presenza dell'RSI in questa vicenda, che per questo mi sembrava particolarmente importante ricostruirla. C'è un timbro impugnato da altre mani, impugnato da mani tedesche. Questo è quanto. E con ciò chiudo rispetto alla questione della Francia, che ho cercato di esprimere il più in fretta possibile. Lascerò perdere l'esame, dopo problemi di tempo possiamo tornarne poi nel dibattito su richiesta. Allora, ancora, cioè, quanti? 5 minuti? Vabbè, no, può darsi. Abbiamo oggi un testo delle lezioni. Ringrazio molto, ma no. Poi avere grazie. Tutti. No, dicevo, lascerò perdere, no, ma non vorrei mica finire. Lascerò perdere l'analisi della presenza di strutture tedesche in Italia, che già esaminato con in camera, se non per sottolineare che accanto alle strutture ufficiali continuano a essere presenti strutture o di corporazioni industriali come il Gebekem, il Piano di Potenziale Generale per l'Industria Chimica, che continua già presente prima, che continua a essere presente in Italia e a arruolare manodopera, quindi parallelamente alle strutture ufficiali, come il Piano di Potenziale Generale per la Regolazione dell'Industria Edilizia, il Gebebau, che continua a essere presente in Italia anche dopo l'8 settembre, che arruola manodopera. E per soffermarmi un momento sulla ricostruzione delle agenzie, delle strutture italiane che lavorano per mandare manodopera in Germania e che poi lavorano per assistere i lavoratori italiani, assistere e controllare ovviamente i lavoratori italiani presenti in Germania. Allora, si tratta grosso modo di due strutture che sono l'Ispettorato Generale del Lavoro, guidato dal Generale Paladino, che è una struttura militare che dipende dal Ministero della Difesa Nazionale, cioè da Rodolfo Graziani, e che ha il compito di arruolare manodopera da impiegare per ora all'inizio in Italia centrale, in lavori militari, e che viene fondato l'8 ottobre 43 e che tenta, viene fondato in accordo con le autorità tedesche d'occupazione e che tenta nei mesi successivi di centralizzare nelle proprie mani tutto il mercato del lavoro, quindi compreso l'eventuale conferimento di manodopera alla Germania. Questo tentativo verrà poi sconfitto, poiché nonostante a quanto risulta da una serie di documenti d'archivio essa avesse l'appoggio delle autorità militari tedesche, viene sconfitto e Mussolini incaricherà poi il 12 dicembre 1943 il gerarca Marchiandi di istituire un commissariato nazionale del lavoro con il compito di assumere competenze ricalcate grosso modo su quelle che ha in Germania il Gewerkschaften. Cioè dopo quattro anni di guerra, tre anni di guerra, si cerca di costruire anche in Italia quel tipo di gestione centralizzata del mercato del lavoro che il governo fascista monarchico non era riuscito a fare prima e che i tedeschi chiedevano da tempo venisse fatto, fin da prima della guerra, da prima dell'entrata dell'Italia in guerra. Quello che è interessante è che la circolare che emana il 9 marzo 1944 Marchiandi, il commissario Marchiandi, che prevede l'allungamento dell'orario di lavoro nelle aziende che lavorano meno di 45 ore settimanali e l'ordine e l'invio in Germania, scusate, della manodopera eccedente, ricalca esattamente, anche dal punto di vista formale, linguistico, la circolare emanata dal commissariato per le colonizzazioni e le migrazioni interne del marzo 1941. Che prevedeva di nuovo per fornire manodopera alla Germania, prevedeva l'allungamento fino a 60 ore dell'orario di lavoro nelle fabbriche e la scrematura di manodopera. Quindi abbiamo una struttura sorta a fine 43 che riutilizza strumenti già impiegati prima, che recupera strumenti già impiegati prima. Per quanto riguarda il problema dell'assistenza agli italiani trasferiti in Germania, grosso modo di nuovo, vengo accanto alla rete consolare, tu hai trovato parecchio materiale, rimangono in funzione quelle strutture costruite dal 38 in avanti in Germania, cioè dalle confederazioni fasciste del lavoro, dei lavoratori, dell'industria e dell'agricoltura, che con il nome di USI, Ufficio Sindacale Italiano, avevano coperto il raggio di una rete estremamente estesa, c'erano se non sbaglio 34 ispettorati e una sessantina di sottoispettorati, quindi capillare, che comprendevano delegati, funzionari, cappellani, 40 cappellani del lavoro, cioè una rete capillare di controllo che continua a funzionare anche dopo l'8 settembre, anzi talvolta sostituisce, questo forse tu l'hai trovato, la rete consolare, nel senso che i quadri sindacali, componenti di queste strutture, aderiscono in massa al fascismo di Salò, fino dopo l'8 settembre si dichiarano fedeli alla linea, continuano si schierano dalla parte dell'alleato tedesco e immediatamente ricostituiscono i fasci, questa volta repubblicani, in Francia, e talvolta assumono funzioni consolari. Il famoso scampicchio che era solito girare per i campi degli IMI cercando di convincere ufficiali e soldati, più che altro ufficiali, ad arruolarsi per Salò, era un ex funzionario sindacale diventato console. Quindi esiste questo tipo di struttura che continua. Per quanto riguarda, questo è l'ultimo punto che vorrei toccare, è la questione della deportazione, nella misura in cui ho cercato di limitare il concetto prima, cioè intendendo per deportazione la cattura di coloro che finiranno in Caere, quindi verranno messi a disposizione della struttura SS guidata da Himmler e che verranno poi usati, se usati, come manodopera in quanto lavoratori schiavi nella rete di campi di lavoro attorno ai Kael, mi pare che si possa trovare, almeno da alcuni casi che ho studiato, si può trovare una sorta di sovrapposizione di all'interno del medesimo rastrellamento di momenti finalizzati al recupero di manodopera da mettere a disposizione di Sauckel e momenti invece di repressione antipartigiana che danno poi luogo a un secondo tipo di rastrellamento le cui vittime vengono poi mandati nei Kael. Questo è per esempio il caso della Benedicta, cioè del grande rastrellamento della Benedicta avvenuto all'inizio di aprile 1944, in cui secondo la documentazione che ho trovato, grosso modo il rastrellamento avviene in questo modo. Nei giorni 4 e 5 aprile 1944, la zona della Benedicta fra il Basso Piemonte, tra il Basso Piemonte e l'Alta Liguria, per intenderci, tra l'Alessandrino e il Genovese, sull'Appennino, i paesi vengono bloccati da forze tedesche, le quali affiggono bandi di arruolamento intimando a tutti i giovani dai 20 ai 25 anni, giovani maschi, di presentarsi. Chi si presenta, e sono circa 200, viene concentrato ma poi viene mandato in Germania ma con modalità particolari. Per esempio gli viene richiesto ai giovani di firmare un contratto di lavoro, l'accettazione del trasferimento al lavoro in Germania. Questo risulta da alcune fonti fragili ma è abbastanza accertato, e il trasporto in Germania avviene con un convoglio normale, non con un convoglio carcerario. Tant'è vero che in questo caso i giovani rastrellati riusciranno poi a fuggire a Milano. E il motivo per cui riescono a fuggire è che appunto non hanno sorveglianza. Questa è un'anomalia rispetto al normale trasporto verso Israele. Dopodiché, chiusa questa fase, dura due giorni, chiusa questa fase, che ha come fine di prosciugare il paese e di mettere a disposizione, poi manodopera alla struttura di Sauckel, parte il rastrellamento vero e proprio. E da questo momento in avanti, coloro che vengono catturati, non fucilati immediatamente, quelli che sono a defilarsi allo scontro immediato e catturati nei giorni successivi, fino all'11, 12, 13 di aprile, vengono concentrati anche loro, ma vengono a questo punto spediti in Germania in un trasporto controllato da guardie armate SS e finiranno a Mauthausen tutti. Quindi con un trasporto di ben altro genere. Quindi abbiamo la compresenza nella medesima azione che ha come fine un fine essenzialmente di carattere militare. L'obiettivo è eliminare, nel caso della Benedicta, eliminare alcune bande partigiane in formazione tra il partigiano e il renitente che stavano ancora formando, che però disturbavano, mettevano in discussione il controllo di alcuni passi appenninici, importanti militarmente. Allora, un'azione militare che ha però due code, un'anticipazione di recupero di manodopera, una coda che poi è il vuotare di giovani, eventualmente di tutti coloro in grado di portare le armi sostanzialmente, quella zona, che vengono poi mandati nel sistema concentrazionale. Quindi questo mi pare un'ipotesi interessante che non ho potuto verificare molto, ma che si potrà discutere. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie.